piace ali per fuori. Ventotto giorni, il tempo clinico per ripulire i corpi, il tempo per uscire e ripescare i morti, il tempo necessario a farci credere più forti, ma quanto può durare se torni alle fonti? Ho festeggiato compleanno in ospedale con le febo, non sapendo più a chi rivolgere il mio credo. Prego perché adesso crepo, la luce del tunnel mi ha fatto diventare cieco. Le mani tremano e il bicchiere non arriva in bocca. Provi a scendere dal letto e non ti reggo le ginocchia. E allora critico, Subotex e Valium, per un paio di giorni scordati pure del bagno. Ho ingoiato tanti rospiche, nello stomaco uno stagno, stagnola. Spingi lo stantuffo che i neuroni fanno la ola. Sto versando tante lacrime che sembra che piova. Fisso negli occhi, pensiero da codardo, un giorno per innamorarmi, 28 per levarlo. Ho guardato più me stesso che la faccia dei miei amici, problemi che non dici, problemi che non dici. Ho conosciuto tossici, dal cuore grande che valgo mille volte il giudizio della gente. Ergastolani mi rimbocca le coperte, le vene son bruciate, si passa le cobrette. Mantieni la famiglia se rapini con la mente, non ti guarda tua figlia se finisci in manette. Hai paura di niente, ma seduti in cerchio siamo bimbi senza latte. Lo sguardo perso e la testa dove sbatte. Quando rimorso viene a prenderti e ti fotte. Non arrivi a domani se non con un abbraccio di una persona che ami. Tu eri la mia amica, io confidavo nella droga. I nervi fatti a pezzi poi in un letto che si suda. Potessi cambiare la mente insieme alle coperte, ci sarebbe meno gente a passare notti insonni. Guardami negli occhi l'ultima volta e dormi. Ti verrò a trovare nei sogni. Oh, ti verrò a trovare nei sogni. Fisso negli occhi, pensiero da codardo, un giorno per innamorarmi, 28 per levarlo. Ho guardato più me stesso che la faccia dei miei amici. Problemi che non dici, problemi che non dici, problemi che non dici, problemi, problemi che non dici. Ehi. Oh.